Siamo al telefono con la dottoressa Schelotto, psicoterapeuta e nonché genovese. Lei abita nel centro storico? Io abito in Piazza Manini, cioè esattamente nel cuore della zona gialla. Quindi lei non è ancora ingabbiata, diciamo? No, per fortuna non sono ingabbiata fisicamente, ma psicologicamente sì. Non è cambiata la città, sono cambiate le persone, tutto. La città è sempre quella. Ora è tutta ristretta, ma un sacco di polizia, carabinieri, finanza, come se fossimo in guerra, anche se io non ci sono stato in guerra. Però è una cosa assurda che si debba sopportare tutto questo. Artritis, asma, diabetes e impotenza. Il medico del pueblo. La zona rossa è un mix di campi profughi palestinesi, Blade Runner e il recinto di Jurassic Park. Durante la notte le gru scaricano dei pesantissimi blocchi trapezoidali di cemento con dei buchi su cui vengono piantati pali in metallo alti 4-5 metri. Su questi pali vengono saldati delle grate in ferro con le maglie molto strette e taglienti. Specialmente quelli del casino, perché è un casino e basta. Sembra di essere in galera, basta, chiudo. Tanto non possiamo fare niente. Ci teniamo quello che fanno e buonanotte. Ai genovesi ci sarà bisogno di curarli probabilmente dopo questa esperienza. Sì, dopo questa grande delusione, devo dire, dopo perché? Questa terribile frustrazione. Beh, perché tutti i genovesi avevano pensato al G8 come una grande occasione anche di socializzare, come un evento bello per la propria città, qualcosa a cui partecipare, qualcosa da vedere. E invece siamo dei sequestrati, la nostra città ci è stata portata via e evidentemente non si può essere che frustrati e delusi. Sì, è impressionante, impressionante. Però non lo so, bisogna vedere, io dico come fanno a sfondare, non credo che sfondano lì, a meno che non si arrampicano come le scimmie. Sono spesse. Spesse, io sono rimasta. Servissero, ma non servono. Cioè, delimitano cosa? Non delimitano niente, perché passano da altre parti. Se vogliono passare, passano da altre parti. Io sono sicuro che passeranno da altre parti. Non è così che si fa. Lei abita in questa zona? Sì. Cambia qualcosa per lei? Da domani sì, da domani verrò privato di quello che ho avuto per tutta la vita. Verrò privato di girare nei posti dove io sono nato, tutto lì. Artritis, asma, diabetes e impotenza. Il medico del pueblo. Sulla sommità le grate vengono poi piegate a 45 gradi in modo da rendere impossibile lo scavalcamento. E a metà della costruzione poi sono stati saldati dei pali, tipo quelli delle impalcature, che nell'altra estremità sono imbullonati a terra. Per cui mi adeguerò. Ecco, è vero, un sentimento di pazienza, però anche secondo lei è vero questa cosa? È una cosa frustrante, guardi. Perché dà un po' di rabbia vedere le gabbie. Sì, sì, sembra di essere tornati. Io non l'ho vissuto, ma penso che sia una sensazione così di limitazione della personalità dell'uomo. Per chi ci sta dentro, il senso della gabbia, cioè sentirsi chiusi in gabbia, l'idea di non poter uscire, se non superando mille controlli, ma è proprio visivamente l'effetto gabbia che atterrisce. Ci sentiamo un po' chiusi perché non si può andare da nessuna parte, però va bene così, comandano loro. Poteva restare più tranquilla magari la popolazione senza queste cose qua, queste barriere. Artritis, asma, diabetes e impotenza. Il medico del pueblo. Pian piano queste gabbie vengono girate fino ad andare a chiudere la strada. In alcuni carrugi in questo momento resta un pertugio, in altri è stato creato una specie di cancello che poi verrà chiuso quando scatterà da domani mattina la zona rossa. Devo dirvi che l'effetto è davvero spettrale, perfino il sindaco di Genova, Pericu, si è detto sconcertato da quello che ha visto. Ospitare il G8 a Genova con tutta questa... Per me è una follia, guardi. Ecco, io non credo che nemmeno alle persone più deboli, più spaventate, agli anziani che sono lì dentro, ai quali questa gabbia dovrebbe dare l'idea della protezione, non credo che nemmeno su di loro faccia un effetto positivo. E mi fanno impressione, perché io ho 65 anni, non ne ho mai visto. Mi fanno impressione e siamo obbligati ad andare via. Anche i più spaventati comunque di fronte alla gabbia si sentono esattamente in gabbia, perché di questo si tratta. Io ho due pazienti fobici, qui non hanno bisogno di inventarsi niente, perché la città così com'è fa paura. e quindi loro hanno visto accentuarsi i loro sintomi. Sì, ieri mi sono spaventata io, guarda, ieri sono andata a mangiare un panino, ho visto quella gabbia enorme, sono rimasta. Questo cos'è? Siamo così dentro? Cioè, io non ho mai preso medicinali, io ho dovuto prendere delle gocce per calmarmi. Perché c'è cioè, tutta questa agitazione, carabinieri di qua, polizia di qua, io non l'ho mai vista. Allora ti prende sempre quel po' di panico, di paura. Che spesa!